edizione della sera. Stasera chiudiamo la nostra puntata presentandovi un libro, l'ultimo libro dello psichiatra Massimo Fagioli, dall'identità della sinistra all'immigrazione, dal pensiero sulle donne alla nascita umana. Questo e altro affrontato dallo sguardo dello psichiatra, autore di una originale teoria sulla psiche umana e dell'analisi collettiva. Arriva in libreria, infatti in questi giorni, viene presentato il prossimo 5 dicembre nell'ambito della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, l'ultimo appunto libro di Fagioli, che è una summa, diciamo, della sua rubrica sul settimanale Left, e da Left parte proprio l'intervista di Daniela Ubaldi. Noi dunque ci risentiamo lunedì sera. Un libro particolare perché raccoglie gli articoli che sono usciti sul settimanale Left, che era Avvenimenti e che si è trasformato in Left, peraltro usando l'acronimo di Liberté, Égalité, Fraternité, a cui è stata aggiunta una T. Forse è il caso di partire dal significato di questa T, che cambia un po' le carte in tavola anche in un discorso sulla sinistra, giusto? Proprio partire dalla T è un po' difficile perché è un discorso enorme. Sulla parola trasformazione, di norma se c'è un uso della parola trasformazione è quando uno impazzisce, cioè non è più lui, è cambiato completamente, si è trasformato, è la strana storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè viene fuori questa dimensione che sarebbe l'inconscio, quella del 1884. Il dottor Jekyll aveva scoperto un liquido, una pozione che riusciva a far emergere l'inconscio, ma l'inconscio era bestia. Io volevo proporre questa trasformazione, è un elemento fondamentale dell'evoluzione umana. E l'evoluzione umana è seguendo tutta una teoria che riguarda quello che è, appunto, è anche d'attualità, la storia della gravidanza, la storia della nascita. La grande storia è quella della nascita, quando dalla realtà biologica compare il pensiero. Allora lì posso mettere la parola trasformazione. Già con la sola lettera siamo entrati nel vivo anche di molti dei temi che sono presenti in questi articoli, perché poi interessa molto anche a quelli che non hanno ancora approfondito questi temi il rapporto che ci può essere tra un discorso sull'uomo e la politica. Questo Left, che significa sinistra, ha queste tre lettere che possono benissimo essere prese per iniziali dei famosi tre termini della rivoluzione francese. Qui la genialità dell'editore è stata di prendere questa parola sinistra, e in cui poi abbiamo elaborato che si poteva benissimo spiegare come una ulteriore evoluzione della rivoluzione francese. E la cosa interessante, ma perché se c'è stata una storia storica che ha voluto un po' superare la rivoluzione francese, la democrazia, è stato il comunismo. E nel comunismo c'è proprio questa famosa, eterna, ripetutissima frase di Marx: come funziona il mondo, la sapienza, la conoscenza del mondo, ora si tratta di trasformarlo. E quindi la T, questa trasformazione, è da un punto di vista teorico, pare che in 100 anni non abbia assolutamente funzionato. Perché ecco l'accusa che io faccio: il mondo non si deve trasformare e non si può trasformare. Anzi, il mondo va lasciato com'è, perché c'è una distruzione della realtà del mondo, per cui sarebbe meglio che non lo trasformiamo per fatto. Quello che va trasformato è neppure, come abbiamo detto prima, il corpo umano, quanto la mente umana. In questo senso sì, proporre, favorire, stimolare i cambiamenti, perché si tratta di ricreare quello che abbiamo detto prima, sempre anche nella vita, nei rapporti entro umani, questa nascita, venire fuori da una situazione prettamente biologica, senza movimento della mente, per ricreare una situazione di fantasia. Lo ricordiamo, gli articoli continuano a uscire su Left, e questo fatto di avere settimanalmente un appuntamento Potrebbe essere una bella ossessione, oppure no, però permette di sviluppare sicuramente un certo dialogo con l'attualità. Sì. sì, ma la cosa interessante è che poi questo scontro col comunismo, forse, dico forse perché c'è stato tutto questo movimento con la sinistra e quella che era una sinistra radicale, di fronte all'apertura, io lo dico sempre, geniale di Fausto Bertinotti, cioè di aprirsi a questa ricerca sulla realtà umana, non soltanto per la ricerca di soddisfazione dei bisogni, ma anche per le esigenze, cioè quello che è la caratteristica umana. È andato tutto magnificamente bene fino a un certo punto. C'era un ambiente lì intorno a rifondazione, intorno a liberazione, ma assolutamente ostile. La ricerca, io penso, è tuttora in corso, come se questa teoria sulla realtà umana, sull'inconscio, proprio fosse una cosa per il comunismo insopportabile. Non deve esistere. Io lo proponevo invece come cosa fondamentale per la realtà umana e anche per la politica e per la sinistra. Questa è la cosa misteriosa. La sinistra avrebbe potuto, quello che dico, che potrebbe aver intuito Fausto Bertinotti, avere un rinnovamento completo se si occupava anche di esigenze oltre che di bisogni.